Gli effetti della contemplazione. L'anima, con questi e altri simili infuocati eloqui, infiamma il suo desiderio, mostra l'effetto raggiunto e chiama con questi incantamenti il suo sposo. Il Signore, i cui occhi si posano sui giusti e i cui orecchi sono attenti alle preghiere, non aspetta che queste siano terminate, ma, interrompendo a metà il corso dell'orazione, si affretta a presentarsi e a venire incontro all'anima che lo desidera, circonfuso dalla rugiada di una dolcezza celeste e cosparso di unguenti preziosi. Ricrea l'anima affaticata, nutre quella che ha fame, impingua quella arida, le fa dimenticare le cose terrene, la vivifica mortificandola mirabilmente con l'oblio di sé e la rende sobria, inebriandola. E come in certi atti carnali l'anima è vinta a tal punto dalla concupiscenza della carne da perdere ogni uso della ragione, facendo diventare l'uomo un essere quasi del tutto carnale, così al contrario, in questa superna contemplazione, i moti carnali sono in tal modo superati e assorbiti dall'anima che la carne non contraddice in nulla allo spirito, e l'uomo diventa un essere quasi del tutto spirituale.